Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Lui non molla, continua a chiamarmi. Non si avvicina e non si allontana. Tutti sono un po' in difficoltà, allora mi giro, sorrido e gli chiedo di avere pazienza. Un attimo, fammi finire che poi vengo da te e ti faccio una fotografia. Ciao, mi chiamo Eros, vivo a Brescia e sono un fotografo. E spesso sono in giro per fotografare e mi è capitata questa vicenda mentre stavo facendo un servizio all'interno della stazione centrale. Io non lo so, perché quando una persona decide di partecipare a questo programma, e per partecipare a questo programma è sufficiente scrivere una storia della propria vita, molto semplice che sia un episodio banale o fondamentale della propria vita, ma un episodio che in qualche modo racconti qualcosa di lui. Ecco, dicevo, non so in base a cosa chi decide di partecipare sceglie quella storia. Buongiorno a tutti, sono le 16:09, oggi è un bel giovedì 30 di gennaio del 2014, bello... per modo di dire, meteorologicamente disastroso, ma come dice Tiziano Bonini, giustamente, bello dentro questo giovedì 30 di gennaio. Sono finiti i giorni della merla, no? La merla è dal 28 al 28, 29, non ricordo mai se è dal... Margherita, grazie. Giorni della merla, chiocciola Radio 24. Dicevo, non so perché uno decide di scrivere questa storia. La storia di Eros però forse un po' lo spiega, perché c'è dentro un pezzo del suo lavoro, del suo mestiere che si è scelto e che fa, e che quindi sentirete, fa il fotografo, racconta qualcosa di lui. Non capita che uno fa il fotografo, lo vuole fare il fotografo. E poi racconta di un incontro, e devo dire che spesso sono arrivate storie che parlavano di questo, parlavano di un momento della propria vita in cui incontravi una persona, che poteva essere uno sconosciuto, che poteva essere la persona che sarebbe diventata tua moglie, oppure quando vedevi tuo figlio la prima volta. E probabilmente in quella cosa lì, nello scambio con una persona che conosci o non conosci, di fatto racconti qualcosa di te, viene fuori. Eros ha deciso di fotografarlo e di mandarci questa storia. Buongiorno a tutti, dicevamo 349-238-6666 è l'SMS per mandarci dei messaggi, o altrimenti voi siete qui Radio 24 su Facebook, o voi siete qui R24 su Twitter. Nella fattispecie l'incontro di oggi, che è l'incontro che vi chiediamo di raccontare se ne avete uno simile, racconta di un avvicinamento con una persona che in Italia si definisce barbone, ma ci sono, che sembra sempre brutto, allora ci sono altri modi, no? Homeless, clochard, ma è sempre la stessa cosa, una persona che non ha una casa, non ha una dimora e vive per strada. Ogni tanto capita di incontrare queste persone che hanno ti danno la sensazione di avere visto delle cose che tu non hai visto, o di sapere delle cose che tu non sai, poi forse no, semplicemente se ne stanno lì e vedono passare un sacco di gente davanti a loro e hanno bisogno di soldi come te per vivere, per campare quanto possibile, per mangiare, per bere. Però diciamo, ogni tanto capita, e lo dico perché sono arrivati in racconti che riguardano proprio questo pezzo di vita, l'incontro con un homeless. Ecco, quegli incontri in qualche modo ti segnano, non dico che ti cambino, però ti rimangono impressi, soprattutto se ci sono città, paesi o quartieri in cui c'è un clochard, un barbone fisso che tutti conoscono e che in qualche modo diventa parte della città, parte di quella comunità. 349-238-6666, come si chiama quel barbone che conoscete, che storia ha, dove si trova e che cosa vi dice quando lo incontrate, o che cosa fate voi per lui quando lo incontrate. 349, ripeto, 238-6666. Sul profilo Facebook Voi Siete Qui Radio 24, Silvana scrive: nella mia città il clochard doc è il Conte Fiocchi. Vive, che già è un nome straordinario, immaginiamo quindi un passato nobile per il Conte Fiocchi, vive all'aria aperta, gira in bicicletta, e pensare che era ricco, e da persona stravagante qual era, girava con carrozza trainata da cavalli, e ha pure una pagina Facebook. Io sono andato a cercare la pagina Facebook del Conte Fiocchi, e c'è, chiaramente non l'ha creata lui, però ha oltre 3000 like la pagina del Conte Fiocchi, andate a vederla, ci sono un po' di foto di lui catturate per strada e in giro con la sua bicicletta. Come si chiama il vostro homeless più vicino, quello che conoscete? Stavo per dire preferito, ma sapevo che sarebbe stata una vaccata orribile. Il vostro homeless più vicino, quello che conoscete, quello con cui comunque vi capita di condividere un pezzo della vostra vita. 349-238-6666. È successo questo ad Eros. Era alla stazione centrale di Milano, stava facendo una foto e ha incontrato Simone. A voce alta mi chiama. Non mi conosce, ma so che dice a me: ehi dai, falla a me la foto, troppo facile coi modelli, cosa te ne fai? La voce roca come una radio fuori sintonia e insiste. Ehi amico, dico a te. Si avvicina, io tengo l'occhio nel mirino e non mi giro. Si stancherà, vuole solo dei soldi. L'art director è lì di fianco, non dice nulla. Il cliente è con lui, mi giro, li guardo, abbozzo un sorriso. La gente passa e tiene lo sguardo impegnato altrove. È sempre difficile guardare accattoni, mendicanti, e gli alcolisti come i tossici fanno sempre un po' paura. Lui però non molla, continua a chiamarmi. Non si avvicina e non si allontana, ma tutti sono un po' in difficoltà. Allora mi giro, sorrido e gli chiedo di avere pazienza. Guarda un attimo, fammi finire, poi vengo da te e ti faccio una fotografia. Si calma. Va bene, ti aspetto, mi dice. E si sposta, arretrando un po'. Faccio fotografie di architettura e fotografie con persone, diciamo fotografie animate, dove ci sono delle persone che fanno delle cose. E faccio fotografie di architettura e di oggetti. Faccio still life, design o comunque still life. Finisco il lavoro. L'art director è soddisfatto delle fotografie e sento che ha apprezzato come ho risolto il piccolo imbarazzo. Il cliente addirittura mi guarda con un po' di ammirazione. Si sa, i fotografi sono un po' avventurieri, no? Quindi io l'ho appena dimostrato. Quindi si sente in una botte di ferro. La mia professionalità è confermata dal tono deciso con cui mi sono rivolto al balordo poco fa. Mi stupisco un po', perché poi, finito il servizio, mi giro e vado proprio verso di lui. È lì, seduto a una decina di metri, solo un poco scostato da altri come lui, più vecchi, tutti con uno sguardo un po' perso, un po' risentito. Eccomi qua. Allora, la facciamo questa fotografia? Mi guarda e piega sul fianco la testa. È un gesto che a volte faccio anch'io e me lo rende meno estraneo. Come ti chiami? Gli chiedo. Simone, risponde. Poi, senza che io chieda nulla, sono 10 anni che sto qui, mi dice. Prima lavoravo, ma non ci stavo più dentro. Mi piace il vino, che ci posso fare? Droghe no, quelle niente, ma con il vino ci ho dato. Mi sono anche un po' curato, ma solo un po'. Poi sto qui, guardo quelli che partono, quelli che arrivano. Ha una faccia simpatica, sa esprimersi bene, è giovanissimo e ha studiato. Fermo la macchina sul cavalletto, confesso che non mi fido del tutto. I suoi amici intorno non vorrei mi facessero uno scherzo scippandomela la fotocamera. Il cavalletto rende la cosa ancora più difficile. Quando vede che lo sto inquadrando, gioca la sua carta. Beh, per la fotografia dammi 2 euro, no? Io me l'aspettavo, rido, gli dico che va bene, ma non li ho in tasca. Adesso scattiamo la foto, gli dico, e poi vado a prenderla. Il cliente e l'art director si sono avvicinati, quanto basta a seguire la scena ma a distanza di sicurezza. Intorno a me è tutto il gruppetto dei barboni, anche loro sono curiosi. Sì, certo, e poi chi ti vede più? No, no, caro, mi dice, prima si paga. Io mi fermo, lo guardo con calma e replico deciso. Non c'è problema, decidi tu se fidarti oppure no, ma decidi bene, perché forse perdi 2 euro. Mi guarda, non parla. Tende la mano e mi dice: ok, penso di potermi fidare. Gliela stringo. Un accordo d'onore per 2 euro estorti con un piccolo trucco. Le dimensioni dei gesti sono sempre relative. Won't you walk with me on the wild side? You gave me what you had, you could give no more. Scatto 2, 3 fotografie. Lui alza il pollice come a dire vittoria, sono vivo. Afferra un pennarello, finge sia un microfono. Vuole essere intervistato anche lui. Ripongo la macchina fotografica e vado a prendere la moneta. Pago. Pago per aver fatto una fotografia. I clienti fanno dello spirito. Allora il prossimo servizio paghi anche noi. Simone mi raggiunge, adesso però lo accompagna una signora. Dai lineamenti sembra eritrea. La donna si presenta. Edda è una volontaria che viene in stazione a dare una mano ai disperati. Mi chiede se posso stampare una copia della fotografia, perché Simone la vorrebbe. Mi lascia il suo numero di cellulare. Prometto che lo farò nel giro di pochi giorni. La chiamerò prima di arrivare. Ci salutiamo, carico le borse e le casse con le luci sul carrello e ce ne andiamo. Nessuno ci importuna o chiede soldi, anzi, la quindicina di sbandati che se ne stanno seduti sui muretti all'ingresso ci salutano con una certa confidenza. Bel ragazzo, con una parlata un po' strascicata, con molta franchezza, perché quando io gli ho detto, mi ha poi chiesto dei soldi, gli ho detto ma... E lui dice guarda che io non mi drogo, dice io ho un problema col vino e infatti la parlata un po' lo dimostrava. E poi altro che pochi giorni, ci ho messo più di un mese. Poi però... L'altro pomeriggio sono passato in stazione. Due stampe della fotografia di Simone in una busta. Ho chiamato la sua amica Edda, ma non ha risposto. Faccio comunque un tentativo e passo dall'ingresso dove l'ho incontrato. È lì, seduto con altri. Mi avvicino e lo chiamo per nome. Alza gli occhi, mi guarda. C'è più nebbia nello sguardo e non mi riconosce. Io gli porgo la busta senza parlare. Mi guarda di sottecchi mentre l'apre, ma quando vede le fotografie si rilassa. Non sorride, ma è contento. Incredulo. Quelle due piccole stampe sono un regalo inaspettato. Per una volta si sente importante anche lui. Ha un aspetto stanco, sciupato. Mi guarda con gratitudine. Mi stringe la mano e si gira a riporre le fotografie nella sua sacca. Ne approfitto per salutarlo. Ehi, è 2 euro? Non me li dai? Non c'è niente da fare. Non può perdere nessuna occasione. Sorrido e gli do una moneta. E se avete ascoltato questa storia attentamente, oggi non potete non andare sul sito della radio, di Radio 24, alla nostra pagina Voi Siete Qui, per guardare la foto, perché tutta la storia raccontava di una foto, raccontava di un episodio legato a una fotografia, e quella che potete vedere sul nostro sito è la fotografia. È scattata da Eros, quindi chiaramente non vedrete lui, ma vedrete Simone, che è il ragazzo di cui parla in tutta la storia, ed è esattamente nella posa in cui, come dice lui, tiene un pennarello in mano come se fosse un microfono. Pronto Eros? Pronto? Come stai? Io bene, voi? Oddio, dalla voce mi sembri sotto un treno, Eros. Dimmi che sei emozionato. Sono in uno stanzone vuoto. Ah, ok. Stavi fotografando, cos'è, un set? Sì. Che foto stai scattando? Ah, fotografie di cibo. Tu, ho visto il tuo sito, Eros, tu fai un sacco di fotografie diverse, still life, pubblicità, reportage, solo moda o mi è sfuggita? Fai anche la moda, giusto? No, di moda, ma poca cosa di moda in effetti. Cioè cibo... Solo per alcune marche, ma poca cosa. Scusami. Architetture, still life. E cibo invece, che tipo di cibo stai fotografando? Sento, chiedo scusa? Che tipo di cibo stai fotografando? Carne, pesce, biscotti? Sì, verdure, carne e pesce, sono 3 still life diversi. Ma è per una... Verdure, carne e pesce, il pesce sul marmo, la verdura su un altro piano. Sul legno? Esatto, cose così. Ma quando tu fotografi... Poi torniamo alla storia, scusami, però... Sì. Quando fotografi tipo della verdura, decidi tu... Cioè, tu decidi l'inquadratura, no? La luce, eccetera, eccetera. Ma c'è qualcuno che ti viene lì e ti mette... No, aspetta, questa fetta di salame la mettiamo un attimo... Eccola, così, asciugala un po' che sembra umida. Sì, certo. Come si chiama quella figura lì? Stylist. Lo style. Forse sul cibo in particolare l'economist. O food stylist. Esatto. In quanti siete per fare una foto della verdura? 3. Siete in 3, ok. E dove la vedremo? La vedremo in un grande pannello multimediale di questi coi LED alla fiera di Hannover, per cui dobbiamo andare fino ad Hannover a vederla. Esatto, non sarà proprio così immediata. Eros, quanto tempo fa succedeva questo episodio in centrale a Milano con Simone? Dunque, era prima dell'estate... 2013. Dai, primavera 2013. Era primavera 2013. Sì. Sei mai, a parte quando gli hai riportato la fotografia, ti sarà capitato di passare in stazione centrale e buttato un occhio per vedere se era ancora lì? No, perché in realtà lui stava con un gruppetto verso l'uscita, diciamo, l'uscita ovest. E mi capita meno spesso di passare di lì. e in più quando magari sei con persone o hai fretta. Certo. No, mi è successo solo una volta di passare da quell'ingresso e lui era lì con altri, ma ho tirato dritto, avevo, vabbè, insomma, poi gli impegni non è che... No, lo immagino. Onestamente non è neanche facile riuscire ad avere un contatto, lo immagino. Però non è una conoscenza, è stato proprio un incontro. Però se c'è qualcuno che ascolta il programma e passa dalla stazione centrale e dopo aver visto la tua foto sul sito vuole passare di lì, e Simone, oggi ho sentito la tua storia, potrebbe essere un'idea. Quanti anni avrà avuto? È giovanissimo dalla foto che ci hai mandato. Sì, io non te lo so dire di preciso. Una trentina forse, di meno. Credo forse una trentina. Ed è italiano lui, giusto? Sì, è italiano. Però non sappiamo nulla di più, da dove viene, qualcosa di più della sua storia. No, la cosa che mi ha colpito è che questa signora, questa sua amica, una volontaria così, secondo me, ho avuto la sensazione che lei fosse eritrea, ecco, dei lineamenti, poi magari mi sbaglio, per carità. Però... Cioè lei, ho visto che gli parlava con molta confidenza, quindi vuol dire che lo segue un po', ecco, okay, cambia okay, il minimo okay. d'assistenza. Eros, senti, cambiando discorso, tu hai una cinquantina d'anni, giusto? Sì. Quindi tu appartieni a quella generazione di fotografi che è stata travolta dall'onda del digitale, giusto? Sì. E come l'hai visto? Cioè lì la questione è o la cavalcavi o ne eri sommerso. Ma no, va bene... Sì, cioè, vabbè, oggi si fotografa tutto in digitale, cioè, la pellicola la usi qualche volta per il piacere di usarlo o per qualche progetto in cui decidi di fotografare utilizzando la pellicola, il vecchio banco ottico piuttosto che le macchine a rullo, così, oggi si fa tutto in digitale. Però dico, hai fatto particolarmente fatica ad abituarti al nuovo mezzo, al... No, dai, diciamo la verità, io sono stato felicissimo. Ah, ok. Si guadagna di più o si guadagna di meno? Si guadagna uguale, non ci vedo una... Cioè, non... Ma hai meno spese, non so, lo sviluppo, la pellicola? Hai meno spese, meno rimborsi, è uguale. Ah, ok, quindi andiamo in pareggio alla fine, insomma. Sì, non c'è una grossa differenza, magari... si può dire che la tecnologia ha semplificato, per cui certi lavori non si fanno più o sono più alla portata di mano, okay. Però tutto sommato... Vabbè, non mi sembra una cosa incisiva da come me la racconti. Eros, e poi ti saluto, la domanda delle domande, preparati, sì. Dimmi qual è la fotografia che hai più a cuore di quelle che hai scattato. Oddio, una fotografia fatta a un'amica tanto tempo fa su un fondale, una fotografia su un fondale dipinto, su un muro che avevo dipinto appositamente per questa fotografia. Hai visto, non era nemmeno così difficile. Eros, grazie ancora, ti lascio tornare alla frutta e alla verdura. Ti ringrazio, buona giornata. Ciao, buona giornata anche a te. Ciao, grazie. Ciao. 349-238-6666, si parla di clochard che conoscete, che sentite vicini. Totò Dinamite, nel sottopassaggio delle cure a Firenze, mi scrivono. Un vero idolo del quartiere. E poi a Parma abbiamo il metallaro errante, dovete vederlo, mandaci una foto se la trovi. E poi Ginocchio, era il barbone del mio paese, dicevano che era ricco. Lo ricordo con le tasche piene di monete, sempre al semaforo a chiedere elemosina al mio paese oppure in trasferta al santuario di Caravaggio. Conoscevamo tutti. Fabio, io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche la puntata di oggi, che sono come al solito Tiziano Bonini, Margherita Ina e Paolino Corleoni. Voi continuate, raccontate storie che fa bene a voi e fa bene agli altri, e se avete voglia inviatecele. Voi siete qui, @radio24.it, basta un episodio semplice di una pagina, massimo due. Se non avete voglia di scrivere, ascoltateci in diretta tutti i giorni, in replica la mattina alle 5 e qualcosa, o altrimenti in podcast dal sito di Radio 24, nella sezione podcast, o da iTunes, o da tutte le piattaforme e da tutte le app. Grazie ancora, grazie soprattutto ad Eros, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Roberto, abito a Modena, la storia di domani è la mia e parla di un viaggio che potrebbe cambiarmi la vita. Questa è la mia storia e io sono qui. We'll be right back.